Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rockway, appuntamento del mercoledì live in tutti i sensi. Sera un grande ritorno, Michele Tosoni in regia e Roberto Badi all'assistenza tecnica. Buonasera Fabio Cardullo. Buonasera. Stai bene? Hai fatto un buon viaggio? Io ho fatto un buonissimo viaggio. Sei il protagonista di Rockwave, una trasmissione focale del mercoledì. Mi avete stupito, devo dire, con la trasmissione, soprattutto per la durata, sarà molto interessante, sì, credo. Due ore di musica tua, sì. Musiche e altre cose, partendo sempre dal tuo progetto. Salutiamo anche le nostre coriste. Certo, beh, se vuoi le presentiamo, sì, anche. Le presentiamo. Allora te le presento io. Certamente. Sono Carla Cavaliere e Veronica Zatti. Che sono essenziali nel tuo progetto musicale. Di tutte le formazioni che ho avuto, questo acustico con le coriste, che è anche una formazione abbastanza snella con cui noi ci muoviamo di qua e di là, devo dire che è... Secondo me è la formazione che ha fatto più date di quelle che ho a disposizione. Vuol dire che ha attecchito bene, sì, sì, sui, sì, palcoscenici. Ma è anche comoda, è un po' una formazione da tascabile. Da viaggio praticamente. Stiamo tutti in una macchina, compresi gli strumenti. Perfetto. E quindi... Strumenti, stasera hai portato una chitarra. Sì. E poi ci sono delle armoniche sparse, nascoste. Sì, c'è un po' di tutto qui. Però... E poi c'è un'altra cosa molto interessante, vero? Abbiamo messo una cuffia. Peccato, sì, peccato. Non si vede, ci sono le telecamere. Però è un... Descrivela. È un qualche cosa che sta dentro un piccolo vaso. Ecco, sì. Sembrerebbe una siepe. Sembrerebbe una siepe e c'è una certa attinenza. Peccato che qualcuno l'ha voluta così quadrata. Mm. E si tratta appunto di una siepe quadrata in vaso, che è la nostra mascotte dell'ultimo videoclip, nonché brano, che abbiamo fatto. Dall'ultimo disco che hai, sì, fatto. Che è appunto siepe quadrata, contenuto all'interno del CD, e di cui è presente anche un video su YouTube ed è anche visibile. Abbiamo dedicato completamente un sito a Siepe Quadrata, che è www.siepequadrata.it, all'interno del quale è possibile vedere tutto il lavoro che c'è stato dietro al videoclip e tutto quello che è nato successivamente, compresi i progetti che stanno tuttora in corso. Torniamo un po' indietro. Come nasce il tuo modo di musicare, di far cantautore, tra virgolette, sempre tra virgolette? Beh, la passione per la... Tu che sei nato a chitarra e hai studiato chitarra, a certi livelli chiaramente. Beh, la chitarra come strumento nasce di conseguenza, credo, la necessità di accompagnare... Le coriste accompagnare... si sono allontanate, potete avvicinarvi al microfono. Ci siamo rilassate. Ah, vi siete rilassate, sia Carla e hanno sia, visto che sia siamo Veronica partiti. Si sono allontanati, ma dovete avvicinarvi assolutamente al microfono. No, dicevo, la chitarra nasce come un po' esigenza di accompagnamento, poi mi sono invogliato ad approfondirla un po' di più, al di là del discorso dell'accompagnamento, ma come nasce la mia storia di cantautore? Come nasce, come si sviluppa l'idea? Perché hai voluto fare questo progetto? Questo è l'ultimo disco, ma prima ce n'era uno prima. È c'era molto un semplice. EP, qualcosa. È molto semplice. Dimmi. Perché tra tutte le musiche che ascoltavo da bambino, e come tutti siamo sottoposti ad un bombardamento, perché comunque la radio ha una funzione incredibile di... Bella funzione, bellissima, la radio è un'ottima, bellissima. Funzione, ottima funzione. Perché la radio, il video kill del radio star, vi ricordate i Bagos? Non è la radio, il video non ha ucciso la radio, assolutamente no, è successo il contrario. Un'evoluzione. Un'evoluzione, la radio resiste, dura. Siepe quadrata ne è la prova. No, dicevo che di tutte le musiche che mi venivano un po' addosso... dalla radio, comunque da tutti gli input che ricevevo, le canzoni dei cantautori sembravano suscitare in me un qualcosa che interessava più delle altre, e così è nato l'interesse, una grande attenzione nei confronti di questi scrittori, perché oltre che musicisti, sono i cantautori scrivono molto, e l'importanza dei testi è una cosa che, assieme alla musicalità dei brani, mi è sempre interessata alla pari della musica, e quindi credo che sia questa anche un po' la caratteristica di chi fa canzone d'autore. Certo, tu hai detto giustamente scrittori, autori, perché dobbiamo ricordare che il termine cantautore è stato coniato da Umberto Bindi, che era uno scrittore, un poeta, uno scrittore di musica. Da lui è partito un po' tutto. Ecco, e quindi direi che la scelta, se si può parlare di una scelta, perché se dovessi dirti quando è iniziato non sarei in grado di ricordare, comunque è ricaduta nella canzone d'autore proprio per questo motivo, quindi... per l'equilibrio tra testi e musica. Una canzone d'autore che un po' svaria la tua, è qualche volta ironica, qualche volta no, perché giochi sull'ironia. Non è semplice giocare sull'ironia qualche volta. Cosa dici, Fabio? Credo sia una possibilità. Una possibilità. tra le tante che hai di comunicare, a me, non so, molti mi dicono di questo fatto dell'ironia, ma in senso io positivo. La uso in senso molto naturale, è presente all'interno dei brani e... Ma non totalmente, no, no. A momenti. Sì, infatti, io posso testimoniare, perché stando molto vicino, succede che l'ironia nei suoi testi viene proprio fuori da sola, non è mai ricercata. Spontanea, sì, non sì, è mai assolutamente, ricercata. Anche perché, non essendo in tutti i testi, in alcuni testi, proprio lì, il testo arriva e dice qua... voglio anche l'ironia, però è una cosa che esce così, da sola. E come, Fabio, come costruisci l'idea di un pezzo, chitarra, qualche accordo di chitarra, e poi o sviluppi prima il testo o prima la musica? Ecco, questa è una domanda che mi viene rivolta spesso e rispondo sempre la stessa cosa. Nella mia testa il brano nasce istantaneamente, immediatamente, non c'è testo. Una divisione. Non c'è una divisione. Ho provato raramente a fare delle composizioni musicali poi aggiungendo le parole, o viceversa, quindi da un testo aggiungere la musica, e mi è riuscito meglio con le cose di altri che con le mie, mentre i miei brani nascono sempre. Cioè, non possono essere distaccati. Ma per quanto mi riguarda, no. Per quanto mi riguarda, no. Bene, facciamo una cosa molto semplice, come sempre, 22.06, apriamo la nostra finestra. Tu hai scelto un primo pezzo da sentire, da disco. Sì, beh, ce lo puoi presentare. Ti introduco, sì, questo brano. Intanto partiamo un po' magari dall'aspetto, quello che è un po' più tecnico che artistico del disco, che è... Il titolo del brano è Amore sono ancora io. Sì, ma il titolo del disco proprio. Il disco Metterò la testa a posto. Ecco, questo è già un titolo significativo. È già un titolo significativo, certo. Poi, poi spiegheremo il perché. Spiegherete anche quale posto, me lo spiegherete voi, perché io non l'ho ancora capito. Bene. Amore sono ancora io è il brano che lanceremo adesso, e presentando così, perché pensavo di farlo un po' alla volta, altrimenti abbiamo una sfilza interminabile di musicisti da ringraziare. In questo brano in particolare devo ringraziare Andrea Balasso, che ha suonato il basso in questo brano, musicista di Vicenza molto bravo, che saluto. E questo era un brano che da tempo era nel cassetto. Sì, era nel cassetto e anche nei desideri di chi si aspettava il CD. Quindi questo è stato un brano fortemente voluto anche da chi ci segue solitamente. Ed è un brano che è nato in conseguenza di un mio viaggio in aereo, il primo che ho fatto, abbastanza turbolento per non dire molto. In sostanza è un peccato, ma voglio riassumere velocemente che dopo l'atterraggio, insomma, di questo turbolento viaggio in aereo, ho scritto questo brano. Sono per liberazione, aspetti di liberazione. Sì, esattamente. E quindi ecco, questo è il brano che è nato di conseguenza a quell'esperienza e di conseguenza a quel viaggio. Ok, lo sentiamo allora. Grandi aerei volano passando dentro il temporale, chissà grazie a quale Dio non si faranno male, male, male, male mai. Amore sono ancora io, anche se ho ballato un tango con un'altra donna e con un altro Dio. Amore sono ancora io, amore sono ancora io. Amore sono ancora io, anche se ho ballato un tango con un'altra donna e con un altro Dio. Amore sono ancora io, amore sono. Quel tuo trucco da signora sul tuo viso da bambina mi ha portato via. Mi manchi adesso che non trovo più il motivo per restare in mezzo a questa porcheria. Amore sono ancora io, anche se ho ballato un tango con un'altra donna e con un altro Dio. Amore sono ancora io, amore sono ancora io. Amore sono ancora io, anche se ho ballato un tango con un'altra donna e con un altro Dio. Amore sono ancora io, amore sono. mano sul cuor per sentir se batte ancora una rosa tra i denti e concedi il tuo tango a una scopa che poi si innamora. Amore sono ancora io, anche se ho ballato un tango con un'altra donna e con un altro dio. Amore sono ancora io, amore sono ancora io. Amore sono ancora io, anche se ho ballato un tango con un'altra donna e con un altro dio. Amore sono ancora io, amore sono. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, un pezzo che si sposa con il ballo, cioè questo tango, questo andazzo, questa linea latinoamericana, sicuramente latinoamericana. Cioè, musicalmente è molto accattivante, nasconde forse certe tensioni, certi timori, certe paure. Con un pezzo molto, molto accattivante, possiamo dire questo. Ma Fabio, più che timori e paure, direi la gioia di essere sceso. Ecco, la gioia di mettere piede per terra, assolutamente. E sembra una cosa di un certo peso, vero Fabio? Sì. Non è niente inventato, è tutto vero, assolutamente. Sì, sì, sì. Poi anche la particolarità di questo stile un po' rumbato, vicino sì, alla musica tradizionale, nato, e quello che succede spesso anche quando proviamo, da consigli con i musicisti che poi dicono ma guarda qua, piuttosto che un zumpa zumpa, potremmo fare così. E questo è proprio quello che è successo in questo brano. Tra l'altro, prima ho presentato Andrea Balasso, che ha suonato il basso, ma in questo brano volevo ricordare anche, oltre alle nostre due magiche coriste qui presenti, che danno sempre l'input, si sente. Con loro c'era anche Adriana Marzotto, che saluto anche lei, e poi Paolo Cavaliere alla chitarra acustica. Hai suonato anche il piano in questo pezzo. Come mai hai voluto anche suonare il piano? Ma perché qui si trattava di fare un pianoforte abbastanza semplice, mm-hmm, e quindi non complicato. Allora. E quindi, sapendo suonare anche il pianoforte, ho detto mi arrangio. L'idea dell'arrangiamento, tu hai detto che i musicisti hanno dato un tocco, ma l'idea dell'arrangiamento l'avevi già così prima di cominciare, prima di incidere? Sì, questo... Scala dice no, è vero, non è, sì, no, o no? era già abbastanza delineato. Ma questo è un brano che, come credo anche gli altri, se io ti faccio sentire chitarra voce, bene o male siamo su questo tipo di struttura, e quindi poi l'arrangiamento succede come arricchimento a quello che già è l'idea iniziale della chitarra, cioè, arricchisce e i musicisti che hanno partecipato ti hanno dato qualche input, qualche piccolo riferimento. Sì, questo accade quasi sempre. È significativo, il gruppo deve essere anche così. Adesso sono le 22:13, abbiamo parlato di arrangiamenti, di idee, e dobbiamo assolutamente partire suonando. Che cosa, Fabio? Allora, come primo pezzo qui vorrei farvi sentire un brano, se possiamo anche dire due parole prima ma assolutamente no, non possiamo, dobbiamo, perché dobbiamo spiegare a chi ci segue via radio che il brano è così, è strutturato così. Con questo brano abbiamo partecipato ad un'iniziativa molto, secondo me, molto importante, ed è per questo anche il motivo per cui abbiamo scelto di partecipare, che è stata indetta da Radio 2 Caterpillar. Sì, famoso Caterpillar. Che è Mi illumino di meno. Ogni anno fanno questa iniziativa per il risparmio energetico. Sì. E è stato lanciato questo bando per scrivere l'inno della manifestazione. Noi abbiamo deciso di partecipare, anche se un po' all'ultimo momento. Anche la curiosità di questa cosa era che esisteva un decalogo all'interno del sito di Radio Rai, e io ho mandato via il pezzo senza leggerlo, quindi è stato un po' penalizzante. Però alla fine questo è uno dei pezzi che rientra anch'esso nel CD, ma questa sera ve lo facciamo sentire dal vivo in una versione leggermente diversa, che è Mi illumino di meno. Perfetto. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. mi illumino di meno sul tavolino, che bel lumino, ed io ti vedo come una stella. Mi illumino di meno sul tavolino, che bocconcino, ed io ti vedo come sei bella. Ah, na na na na, dai dai do da vai. Si è fatta la luce spenta e adesso tutti sotto al cielo. E questa è una notte magica se mi illumino di meno. Si è fatta la luce spenta e adesso tutti sotto al cielo. Che questa è una notte magica se mi illumino di meno. Mi illumino di meno, di luce finta, non c'è la spinta per arrivare fino al tuo cuore. Mi illumino di meno, ma quante volte m'hai detto scemo, spegni la luce, non aspettare. La na na na, vai dai, va vai. Si è fatta la luce spenta e adesso tutti sotto al cielo. E questa è una notte magica se mi illumino di meno. Si è fatta la luce spenta e adesso tutti sotto al cielo. E questa è una notte magica se mi illumino di meno. La luna questa sera è piena o non lo so. Se spegni qualche luce magari la vedrò. La luna questa sera è piena o non lo so. Se spegni qualche luce, c'è mi illumino di meno. Oh, boh, la vaduru du, vina pai, dai. La vaduru du, vina pai, la na pa, vira da na vedu, boh. La vaduru du, vina pai, dai, vidai. Mi illumino di meno, mi illumino di meno sul tavolino, che bel lumino, ed io ti vedo come una stella. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, un brano molto legato alla bossa nova, anche se un po' dilatata, diluita, un po' alla quei coretti femminili, alla Phil Spector degli anni 60. Secondo me le due voci di due ragazze della Carla e della Veronica hanno coniugato in quel senso il pezzo. Cosa dici, Fabio? Suadenti, direi. Suadenti, molto suadenti, molto divertenti anche. Un po' sì, sicuramente anni 60, quello sì, fino agli anni 50, inizio anni 60, quel cosiddetto muro del suono che aveva inventato Phil Spector con le sue coriste. In realtà questa era la versione iniziale che... E poi è stata cambiata, sì, leggermente nel disco, sì. È stata un po' una cocciutaggine mia, nel senso che nel momento di scrivere il brano al concorso... E c'era la fretta. Avendolo composto praticamente... un giorno prima della scadenza del concorso abbiamo preparato un arrangiamento un po' finto. Ah, ho capito. Un po' il vero è questo. Che aveva un po' la pretesa di essere più clamoroso di un chitarra voce, ma alla fine credo che se avessi presentato questa versione sarebbe stata forse più interessante. Più interessante. Era molto, questa è molto bella, molto, molto divertente. Divertente però diluita in una certa maniera. Sì, c'è la bossa nova, è una bossa nova non così pesante, calma, delicata, può andare, può dare un certo peso in una determinata maniera e in un'altra maniera, secondo me. E quindi, ripeto, quel coro femminile alla fine dà un certo riscontro. Morbidezza, morbidezza. Ecco, morbidezza, possiamo andare. Mi fai sentire un momento com'è questo, questo piccolo strumento che hai usato? Come suona? Come suona, esatto. Ecco, anche questo fa parte del latinoamericano, del danzare, del muoversi. Come si chiama questo strumento? Shaker. Dobbiamo dire, la gente non lo sa, si chiama shaker. Bene, anche quello dà una certa colorazione, va bene? Possiamo dire così? Sì, sì, sì. L'idea di questo pezzo, ti hai detto che è stato fatto all'ultimo secondo per andare al concorso di Caterpillar. Mm-hmm. Poi, nei concerti, quando fate i concerti, come lo adeguate in questa maniera? Oppure c'è un'altra colorazione, un altro risvolto? Beh, dei concerti che abbiamo fatto finora, fino a questo punto, a seconda del fatto se siamo o meno con la band, se siamo in acustico... Se siamo in tre così. Se siamo in tre così la sentirai esattamente come uguale, te l'abbiamo appena fatta sentire. Perfetto. Altrimenti aggiungiamo Paolo Cavaliere alla chitarra, che arricchisce... Arricchisce sicuramente la formazione, perché io posso permettermi anche di suonare un po' meno di così e concentrarmi magari più sul cantato. Sulla voce, sì. Quando c'è la band invece cambia tutto, perché la dinamica è un'altra e a volte anche gli arrangiamenti stessi cambiano, certe ritmiche su certi punti del brano possono diventare altre. E forse credo che la caratteristica per cui i musicisti non sono tanto contenti di me è che cambio spesso le versioni. Come Bob Dylan praticamente, anche Bob Dylan cambi in continuazione, il dovuto rispetto chiaramente, cambi in continuazione, perché sono musicisti straordinari quelli di Dylan, non meno i tuoi sicuramente, però Dylan, come tu ben sai, come molti ascoltatori sanno, non... La scaletta non viene mai messa in pratica da lui, la cambia in continuazione loro. Basta un tocco, capiscono che di là ha deciso di cambiare totalmente tutto. E quando fai certi pezzi, molto, molto spesso e volentieri il pubblico non riconosce i pezzi di Dylan e sono talmente complicati, ingarbugliati, solo qualche nota, leggera nota. Allora forse ricordi, quello era un occhio che non aveva visto, forse. Ma di là è così, di là è un genio, ma anche Fabio può essere un genio, può cambiare totalmente. Ma come tu hai detto, i musicisti non sono molto soddisfatti di questo tuo modus di portare lo spettacolo. Credo che sia una forma di insoddisfazione nei confronti di dell'abitudine. Ah, e quindi... tu non sei abituario, no. Assolutamente no, devi assolutamente allontanarti da quel modo di continuare, perché spesso e volentieri un musicista diventa qualche volta abitudinario, qualche volta lo diventa. Qualche volta, quando molti chiedono sempre quel pezzo là, perché non mi fai sempre quel pezzo là? Quando uno ti chiede in continuazione, perché non mi fai quel pezzo là? Cosa puoi rispondere? Non rispondo io, ma rispondono le coriste, come nel caso della Carla, che da troppo tempo facevamo un brano di cui non dico il titolo. E basta. Io dicevo tranquillamente ai concerti, guardate, non lo faccio perché altrimenti mi rimproverano. No, diciamo che quando ce lo richiedono in un live, purtroppo non riesco a frenare l'espressione che mi viene automatica sul viso. Cioè non ti piace più. Sono più così forte costerna, di te. Basta, vi prego, non me lo chiedete più. È più forte di te. Sì, sì. E capita. Stiamo benissimo. Facendo un'ottima pubblicità. No, perché no? Di cui non diciamo il titolo. Non abbiamo detto il titolo del pezzo, quindi siamo perfetti. Posso dire che non è contenuto nell'ultimo disco, ma nel disco precedente. Ah, quindi nell'ultimo. Io non l'ho sentito, quindi non posso dire. Sì. Adesso senti, perfetto. Adesso, i fili vanno e vengono, come i pezzi. Andiamo un altro pezzo dal disco, cosa dici? Sì. Ecco, che brano hai scelto, ti ricordi? Sì, mi ricordo, il brano è La Luna Spunta ed è un brano rappresentativo anche da un punto di vista musicale, perché è un brano in stile swing. In stile? Swing. Ah, perfetto, sì. Ed è la prima volta che io mi avvicino a questo tipo di genere, di stile musicale. E qui devo ringraziare anche la manina di Giuliano Cremasco, che ha suonato il pianoforte su questo brano, contribuendo, senza dirlo, alla colorazione, agli accordi dell'armonia del brano, e anche Massimo Fracasso, che è un mio amico, che ha suonato il tema di tromba che sentirete all'interno. Tu hai detto di scuola, lo swing, c'entra qualcosina Thelonious Monk e la scuola di Thelonious Monk? Ma qualcosina, no, io qualcosina. So che tu l'hai letto negli appunti. Qualcosina, sì, l'ho letto negli appunti. Qualcosina c'entra? Vuoi? No, no, è quello che c'è scritto riguardo alla scuola di Thelonious, scuola Thelonious di Vicenza. Non c'entra niente, jazz, riguarda, sì, c'entra jazz. Riguarda il mio passato di lezioni che ho preso. Ma il tuo passato non è mica dimenticato, vero? No, no, no, certo, anzi. Ne parlo con gioia, ricordando che alla Thelonious, appunto, di Vicenza ho preso le mie prime lezioni di canto con Anna Cimenti. Lezioni di canto orientata sul jazz oppure no? No, devo dire che la Thelonious è solamente la scuola è di impronta jazz, chiaramente sì. Però in quel caso io avevo un'esigenza di cantautore di lavorare sui miei brani e sono stato accontentato in quel senso. Benissimo, ho capito tutto. Però lo swing non ha tanta distanza dal jazz, è collegato. No, certo, collegato, musicalmente, assolutamente collegato. Musicalmente, certo, esatto. Collegato. Lo sentiamo, cosa dici? Certo, la luna spunta. La luna spunta dalla collina, la birichina si fa vedere. Spunta la luna dalla collina, la birichina si fa vedere. Ma nel vialetto già un po' che aspetto, se al mio cospetto non ti vedrò. Ma nel vialetto già un po' che aspetto, solo soletto ti aspetterò. Guarda la luna che stramba, scivola scivola su, nuvola suona la tromba finché la luna va. Guarda la luna che stramba, scivola scivola su, nuvola suona la tromba finché la luna va, finché la luna. A volte rido, senza motivo, tu mi domandi che cosa c'è, che vuoi che dica, cos'è la vita, senza motivo, senza perché. Ma nel vialetto già un po' che aspetto, se al mio cospetto non ti vedrò. Ma nel vialetto già un po' che aspetto, solo soletto ti aspetterò. Guarda la luna che stramba, scivola scivola su, nuvola suona la tromba finché la luna va. Guarda la luna che stramba, scivola scivola su, nuvola suona la tromba finché la luna va, finché la luna va, finché la luna. Guarda la luna che stramba, scivola scivola su, nuvola suona la tromba finché la luna va. Guarda la luna che stramba, scivola scivola, scivola su, nuvola suona la tromba finché la luna va, finché la luna va, finché la luna. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, stiamo parlando, stiamo conversando piacevolmente con Fabio Cardullo per presentare il suo disco Metterò la testa a posto. Abbiamo sentito anche la voce di Veronica Zatti che rispondeva a Fabio, questo swingato, questo pezzo swingato, leggermente swingato, non proprio totalmente swingato. Questa risposta, questa deliziosa risposta della voce di Veronica alla tua, Fabio. L'idea di questa risposta è nata da te? Si è sviluppata spontaneamente grazie a Veronica oppure a qualche altra cosa segreta? Ma non ricordo. Veronica non così risponde, dice niente. No, stavo pensando. Forse l'idea della risposta è venuta a me, però non so se questa era la versione iniziale di quello che abbiamo deciso di fare. Ma avete cambiato tante versioni? Ma no. Parlo della risposta, della risposta sul testo di Veronica. Credo che è nata un po' anche sperimentando poi diverse soluzioni nel lato di registrare. In modo spontanea risposta, senza nessuna difficoltà, proprio entra perfettamente. Sì. Mm-hmm. Proprio così. Cosa dici, Veronica? No, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Questo è il pezzo... Avevamo detto jazz, ma un po' Cotton Club, secondo me, questo pianista che è al centro dell'universo sonoro, tutti gli altri intorno che suonano, che cantano, tu canti in primis. Sì, questo è l'unico pezzo leggermente che si allontana leggermente dal trend degli altri, sì, ma volutamente. Sì, credo che sia dovuto anche allo questa stile, tromba, ma anche al pianista. La tromba con la sordina crea sicuramente un effetto retro. Che bella la tromba con la sordina, dà un certo senso, un certo peso al pezzo. Non un peso nel senso dispregiativo, un peso nel senso di accattivante. Sì, ti riporta in certi anni. Esatto, ci riporta in certi anni, 30, 40, 50, più 40, 50 che 30 secondo me. E molta America, molto Chicago forse. Esatto. Un po' così. Bene, 22:31, siamo sempre a Rock Wave. Siamo sempre con Fabio e le nostre coriste, gentili coriste. Cosa suoniamo, Fabio, adesso? Allora, prima vi abbiamo fatto sentire Mi illumino di meno. Adesso andrei su un brano un po' più mosso. Ed è un brano che non ho mai fatto tanto dal vivo. Infatti adesso Veronica ti fa il fondo, è come da un musicista tiene fuori il fondo. Esclusivo. E devo dire che è anche un brano che si presta al momento, perché è un brano che parla delle vacanze al mare, di un po' quello che succede nella spiaggia, di quello che succede che si vede e di quello che succede e non si vede. Ma molto tranquillamente il brano si intitola Stimolando Melanina. Abbiamo capito, sì. Cioè, esattamente. È molto preciso il brano, parla di un processo, credo, organico sì. Assolutamente normale che, sì, che capita. Sì, stimolando melanina. Abbronzante, esatto. Stimolando melanina, la domenica mattina, quanta gente sulla spiaggia si diverte come mai, starà pensando a niente, o forse chi lo sa, starà pensando all'opportunità. Rimanere al mare, wow, wow, wow, non farsi più trovare, wow, wow, wow, guarire con il sole, la luna che ha, la luna che stimolando melanina. La domenica mattina, quanta gente sulla spiaggia, guarda la tua mogliettina, starà pensando a niente, o forse chi lo sa, starà pensando all'opportunità di rimanere al mare, oh, oh, oh, non farsi più trovare, oh, oh, oh, guarire con il sole, la luna che ha, la luna che la la la la la la la la la la la la la la la. Il tempo sgranocchia settimane come noccioline, la, E gli occhi corrono alla corsa delle mutandine. Il tempo sgranocchia settimane come patatine. E i galli corrono alla corsa delle galline. Starà pensando a niente, o forse chi lo sa, starà pensando all'opportunità di rimanere al mare, oh, oh, oh. Non farsi più trovare, oh, oh, oh. Guarire con il sole la luna che ha, la luna che la la la la, la la la la. Ciao, sono Don Francesco Farronato. Sono parroco di una piccola parrocchia di Padova, San Prosdocimo. Vi aspetto al sabato alle 8:15 del mattino e alla domenica alle 7 sempre del mattino per una rubrica religiosa che si intitola Briciole povere di un pane di festa. È un tentativo di ricamare parole piccole intorno alla parola grande del Vangelo della domenica. Vi aspetto. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, un pezzo assolutamente anni 60, in cui ci si tuffa da parte di Fabio e poi i cori di Carla e di Veronica danno un certo peso, in un certo senso si catapulta proprio negli anni 60. Quindi, rifatemi i coretti che fa lei, la risposta sua, vai vai. La la la la, la la la la, la la la la. È proprio così, una volta si faceva così. Bella l'idea, è molto divertente, molto accattivante e molto trascinante. Sì. Mm. Un trascinante che non pesa, che fa gentilmente andare avanti senza nessun problema. Ma ti viene voglia di andare in spiaggia un attimo? Certo, certo, mi voglia andare in spiaggia un attimo, veramente. Abbiamo praticamente ricreato la spiaggia in questo momento alle 22:37 a Blu Radio Veneto, a Rockaway. L'idea, Fabio, di questo pezzo così accattivante, così anni 60, profondamente e volutamente e deliziosamente anni 60. Ma al di là della bronzatura. Ma guarda, l'idea qui proprio nasce così. Sì, perché come ti dicevo prima, i brani vengono così, vengono e vanno, da soli. Come e questo è venuto così. Vengono e vanno come le nuvole, vi ricordate? Da nuvole. Però ti posso assicurare che sto brano qui è nato, sì, che sono andato al mare qualche giorno, qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, ma proprio per concedermi qualche giorno, e siamo andati in furgone. E ho dormito in furgone pur di andare a farmi un bagno qui vicino. Negli anni 60 il furgone proprio. Sì, c'era il potere. E non avevo una gran condizione di bagnante, nel senso che siamo partiti un po' come siamo partiti. E quindi nel momento di andare in spiaggia si vedeva che noi non eravamo così attrezzati. E ci guardavano anche un po'. Un po' così, un po' strano. Ma dove vanno questi qua? Sì, dove vanno? Non sono certo tipi da spiaggia. Esattamente. No. E però è stato appunto guardando la gente attrezzata della spiaggia, che comunque anche in spiaggia devi avere, sì, certo, i suoi crismi, è chiaro, come dire, che il pezzo è venuto fuori forte, perché se sì, vedi meglio una condizione quando hai la possibilità di starne fuori, no? E noi c'eravamo dentro, però non da bagnanti, e quindi una visione al di fuori. Penso che questo abbia contribuito molto ad annoiarmi, e quindi il brano è arrivato. Sì, ma puntuale. Possiamo ritornare al discorso dell'ironia, è un'ironia molto ben fatta, molto calibrata, non violenta, così delicata, per dare determinati tocchi, determinati momenti. Dal di fuori tu vedi, tu hai visto, hai sentito certi atteggiamenti dei bagnanti classici che devono prendere il sole assolutamente, perché non si può non andare al mare per non prendere il sole. Invece non è proprio così, qualche volta si può andare anche al mare, anche così, per fare una passeggiata, per sentire l'aria. Sì, però bisogna sempre guardarsi le spalle, perché se si aggira lì vicino un cantautore, è vero. È pericoloso a è volte. Molto pericoloso. In realtà per questo brano dovrebbero ringraziarmi, perché nel momento in cui uno, sai, c'è un po' la sindrome oggi di chi non fa, si sente quasi in colpa, un po' come quelli che si prendono una vacanza ma si sentono in colpa perché gli altri stanno lavorando, no? È vero. E se uno ti chiede cosa stai facendo in spiaggia, io sto stimolando Melanina. Giusto. E quindi abbiamo risolto tutti i dubbi occupazionali del momento. E quindi lo stimolare Melanina può diventare un'occupazione. Anzi, io quasi quasi apro un'attività. Cosa fai tu? Io stimolo Melanina. È una cosa non da poco. Con i tempi che corrono. Con i tempi che corrono. Poi col caldo che corre, che è stato questa estate, è una cosa tremenda. Bene, 22:40, sempre a Rockaway, sempre parlando con Fabio, con Veronica e Carla di questo progetto. Ma tu avevi fatto altre cose, avevi fatto altri concerti, altre manifestazioni. Ci puoi spiegare un momento il tuo percorso? Prima abbiamo già parlato dell'EP, ma tutti i tuoi concerti, i tuoi diversi punti di riferimento dal punto di vista del live che hai fatto. I punti di riferimento sono abbastanza chiari, nel senso che con la musica che faccio non è una musica prettamente di intrattenimento. Quindi devi cercare determinati... Discoteca, ci siamo stati poche volte, pochissime se non mai. Bene. Bene, tra virgolette, sono senza discoteche sminuire, che ci senza sono sminuire certo la discoteca. Certo. Voglio dire che i luoghi per il mio tipo di musica sono più teatri, locali dove è gradita questo tipo di musicalità. E quindi restringi il cerchio. Hai toccato determinati concorsi, manifestazioni. Sì, anche concorsi, certo. Sì. E quindi io ti dirò, tra tutti preferisco il teatro. Come mai preferisci il teatro? Perché è un luogo intimo che al tempo stesso ti consente di esprimerti anche con una sorta di concerto che potresti fare benissimo anche fuori. Nel senso che anche se sei in teatro io posso suonare con la band. E quindi c'è attenzione. Ecco, esatto, il teatro è rischioso perché c'è molta attenzione. In uno spazio più grande, all'aperto, l'attenzione c'è e non c'è. Ma in teatro la gente è attenta perché è andata proprio per sentire te, assolutamente te. Esatto. E quello è... Sì, e quindi di tutti gli ambienti credo che il teatro, oppure quei locali in cui c'è una predisposizione, in cui l'ascolto viene favorito, sicuramente... da preferire, o io preferisco questo tipo di luoghi in cui la musica viene sentita per quello che è. Di solito i pezzi che scrivi li presenti prima agli ascoltatori, presenti prima al pubblico e poi li incidono, nel caso di questo disco li hai presentati prima alla gente e poi hai deciso di inciderli, o è una cosa fatta assieme? Ma nel caso di questo, album e anche del precedente sono stati, e questo l'avevo anche già detto nelle altre interviste, scusami, non sentite le altre. Vabbè, certo, un punto d'arrivo. E quindi il disco nasce in conseguenza alla È una specie di greatest hits questo album, possiamo definirlo così, la summa delle cose che avevi fatto. Ci sono dei pezzi nuovissimi, anche dei pezzi abbastanza datati, e quindi sì, un punto d'arrivo proprio in questo senso, nel senso che sicuramente i pezzi sono stati fatti sentire prima, il disco non esce come un inedito ma nasce come la consacrazione di quello che è stato il percorso di questi brani. Sai cosa penso? Dimmi. Penso che fissare un brano sul disco equivale un po' ad ammazzarlo, nel senso che non è più vivo. No, ma lui assume quella forma anche per chi l'ascolta, come dicevi tu prima. Poi chi va a sentire i concerti si aspetta di sentire il brano che ha sentito nel CD. Ok. Esatto. Se tu ti permetti di fare una versione diversa, c'è qualcosa che tante volte non torna in chi l'ascolta. Il farlo dopo il brano, del fatto di aver già fatto sentire i pezzi prima, ti salva, con i musicisti soprattutto, per i mesi precedenti, perché puoi permetterti di farlo in tutti i modi e la gente non se ne accorge. Poi invece quando hai fatto il disco, ma qui non hai fatto com'era. Non so, ma è bello e positivo anche, sì, è negativo ma anche positivo. Attenzione, perché però la gente si ricorda di te. Ma mi piaceva molto quel pezzo che facevi. Lo so che poi diventa una cosa pesante, una cosa che, come diceva giustamente la Carla, era stanca di farlo sentire 20 volte. Attenzione, però credo che questa è una cosa che non è voluta, nel senso che nasce naturalmente per il fatto che con le possibilità che abbiamo, trattandosi di due dischi autoprodotti, sono stati realizzati nel momento in cui potevamo farlo. Certo. E quindi a me piacerebbe molto ed è credo il sogno di ogni musicista, di ogni artista che decide di intraprendere questo tipo di mestiere, il fatto di avere la possibilità di fare le cose appena nascono. Però per il momento queste due autoproduzioni sono nate con questi ritmi e quindi successivamente all'aver fatto sentire i brani. Queste sono le due produzioni nate con questi ritmi, però adesso c'è un po' di acqua, ci vuole, perché il discorso è stato abbastanza lungo, ma io ti faccio cantare subito immediatamente e poi parleremo di altre cose. Altro pezzo che hai in scaletta, qual è adesso? Beh, adesso vi faccio sentire un brano che, appunto, parlando di realizzare, ecco, conto di realizzare quanto prima, e credo che, spero almeno, dimmi, diventi un video. Bene. Però intanto vi faccio sentire l'audio. E il brano è Ci vorrebbe Robin Hood. Ah, quello è molto bello, l'ho sentito prima in anteprima mentre lo provavano. È molto molto interessante, soprattutto di Nico Retti. La risposta che Fabio e Carla e Veronica costruiscono, un pezzo decisamente molto interessante. Provate ad ascoltarlo, cari ascoltatori. Qualche mattina andiamo a correre furtivi lungo le sponde del fiume, ma c'è qualcuno che si stacca per andare a fortune. Lottiamo contro gli insetti della prima luce, poi contro vento andiamo verso quella strana voce, e chi è stato a fortune ritorna, ci guarda e poi guarda giù, e ci vorrebbe Robin Hood del cuore, restituire amore a chi ha pagato in più col cuore, donando il sangue a quelli con il sangue blu, per dare ai ricchi un cuore, agli altri un po' di più. La solita minestra, quando ci tocca e basta, corriamo senza pensare, ma c'è qualcuno che ci sveglia per andare a guardare. La vita è un sonno pesante, un po' più del normale, è un sogno tanto lungo, tanto che si fa reale, e chi è stato svegliato ritorna, ci guarda e poi guarda giù, e ci vorrebbe Robin Hood del cuore, restituire amore a chi ha pagato in più col cuore, donando il sangue a quelli con il sangue blu, per dare ai ricchi un cuore, agli altri un po' di più. Poi lasciare l'orgoglio e trovare una strada e un amico che conti di più di quei falsi obiettivi che ti fanno credere quello che non sei tu, perché diventi Robin Hood del cuore, restituire amore a chi ha pagato in più col cuore, donando il sangue a quelli con il sangue blu, per dare ai ricchi un cuore, agli altri un po' di più, per dare al sole un cielo e al cielo un po' di blu. Rock Wave, l'onda del rock. sì, veramente sono state molto brave, veramente. Ho visto che hai dato l'ok, i 5, come si dice, la pallacanestro. Sono stato molto brave. Questo è un pezzo che io avevo sentito prima, lo stavamo provando. È un pezzo che ha un inizio folk e un finale gospel, secondo me, alla fine. Sì. Leggermente gospel, bello, molto interessante, molto intimista, molto delicato. Stavolta non hai corso sulla bossa nova, sui ritmi latinoamericani, sei corso sui ritmi assolutamente cantautorali. Come mai? Questo, visto che è un pezzo che non appartiene al disco, che ha inciso un pezzo fuori dal disco. Sei veramente un dottore tu della... No, non sono un dottore. Lo stile qui è ballad. C'è una ballata, assolutamente una ballata. Abbiamo fatto una ballata folk all'inizio, secondo me. Poi, soprattutto, poi tu l'hai variata la chitarra e l'hai giocato molto bene, l'hai colorata in maniera diversa. Però è una ballata l'iniziale folk, a mio parere. Sì, questo secondo me è aiutato dal fatto che te l'ho fatta sentire con la chitarra. Esattamente, io sì, fortunatamente, guarda, stasera è bello, eravamo lì per venir via con Giuliano Cremasco, che era il pianista, e avresti sentito una versione un po' diversa. Poi non è venuto, però appunto trattandosi di una ballad col pianoforte sarebbe stata ancora più romantica come intenzione. Mettevamo il clavicembalo, era ancora meglio, alla Rolling Stones, possiamo dire, alla Brian Jones, ecco, possiamo dire così. Ecco, quindi questo riguarda lo stile. Il brano poi invece ha un'ispirazione tutta diversa. Sì, chiaramente sì. Però è bello, cioè, ripeto, io l'ho sentito prima, l'ho sentito adesso, proprio dal vivo in diretta, al 22:51. Hanno questa alone di favola, posso dire questo? Una favola è una piccola favola, un piccolo ritratto di un momento, Robin Hood, quello che dà ai poveri levando ai ricchi, quindi già favola in se stessa, già sistema, già movimento di un certo tipo. E tutte le leggende folk inglesi partono, si avvicinano, hanno narrato di Robin Hood. Ma concettualmente è un testo sicuramente anche questo che si stacca da un altro mio modo di scrivere, e appunto l'utilizzo del personaggio Robin Hood è stata una scelta, appunto, in Robin Hood del cuore. Sì. Rubare cosa poi? Rubare danaro o rubare un sentimento? Rubare un'impressione da restituire a chi non ce l'ha, capito? Io non ne ho fatto un discorso materialistico, bensì un discorso più spirituale, probabilmente. E quindi era questa la mia intenzione, utilizzare il personaggio di Robin Hood per la sua peculiarità, appunto, di rubare i ricchi per dare ai poveri, e io l'ho immaginato rubare qualcos'altro, non il danaro, ma un sentimento, esatto. Proprio di questo, adesso rubiamo qualche minuto per cosa? Per fare la nostra solita domanda. Leggermente prima, di solito alle 23, facciamo alle 22:53 la stessa cosa. La domanda è semplice: cosa portereste su un'isola deserta? Siamo in tre stasera e abbiamo tempo, possiamo fare 5 dischi a testa, tenendo a conto una cosa molto semplice, Michele lo sa, ma è da tanto tempo, non si può copiare, assolutamente, ognuno sceglie i propri dischi senza copiare, questa è la regola ferrea di Rock Wave. Anch'io ho una domanda. Vai. Ma nell'isola poi ci andiamo tutti insieme, o certo, ognuno avrà la sua isoletta? No, tutti insieme. Allora siamo fortunati, perché tutti abbiamo insieme la totalità di... Siamo in 4 per 5, 20. Ma io non c'entro. Io faccio parte, sono solo il traghettatore, io dico. Ok, il traghettatore sei tu, per cui approderemo in 3, e quindi abbiamo 15 dischi. Vai. Bene, siamo messi bene. Abbastanza buono l'aspetto. Vuoi cominciare te o facciamo cominciare con le signore? Beh, io direi che c'è la Veronica desiderosa di dire il suo disco, quindi... Sì, così non mi rubano i dischi. 5. 5, sì. Poi se io non sono molto brava a ricordarmi... Non importa, dai gli input e cioè, poi... posso scegliere anche un'intera discografia? Sì, poi okay. Di un artista, chiaramente. Sì. Di un artista. Allora, esatto. Allora, io mi porterei tutta la discografia di Bob Marley. Sapevo. Poi mai il reggae lo ami fortissimamente? Io sono molto appassionata di reggae. Mi piace la ritmica, perché la trovo coinvolgente, la trovo trascinante. E personalmente mi fa star bene quando l'ascolto. Eccolo, sta arrivando. Senti, sta arrivando. Ecco, sta arrivando. E quindi sì, cioè il reggae lo ascolto, ne abuso a volte, giornate, dipende anche dalle giornate. Quindi non sapendo scegliere in realtà quale disco di Bob Marley, che comunque rappresenta l'artista per eccellenza, mi porterei via tutta la discografia. Probabilmente ascolterei molto di più One Love e Buffalo Soldier, sicuramente questi. Poi di Bob Marley, sai, nella classifica di Billboard, sai che a determinate classifiche ci sono i dischi da catalogo. La raccolta di Bob Marley è 1084 settimane in classifica, quindi ecco, moltissimo tempo. Fantastico. È superato chiaramente da Dark Side, che è molto di più, però 1084 settimane, quindi vuol dire che è un musicista che non ha limiti, non ha confini. Esattamente. Sì. E poi mi porterei via i Subsonica tutti mi porterei via. Come mai Subsonica? Ecco, perché mi piacciono un sacco. Mi piace anche adesso, anche se hanno leggermente variato, sì, il genere, sì. Più elettronici, no, rispetto, esatto, a una volta. Non ho capito molto lo stop più o meno acustico di qualche anno fa, di qualche album fa, però il primo Subsonica e Microchip Emozionale sono due dischi molto belli. Mi piace lui come canta, mi piace come scrivono, l'affiatamento, sono un bel gruppo, li ho visti miliardi di volte. E poi mi porterei via, che ne so, Sonica di Marlene Kunz. Ah, bene, andiamo sempre sull'indie italiano. Assolutamente. Si chiama Sonica? Sì. Assolutamente sull'indie italiano. Sì. Andiamo. E poi mi porterei via anche qua tutte le cose che ha fatto Ella Fitzgerald. Ah, allora andiamo su un altro campo. Andiamo su un altro, perché io sono molto... Vabbè, giusto che sia così. Ne un altro. E ancora un altro, sì, un altro gruppo. Un altro gruppo. Posso fare... posso pensarci. Okay, e se poi me lo rubano. Intanto finché tu ci pensi, sì, dimmi. Mi ritengo fortunata, perché intanto due dei suoi dischi li porta via lei, per cui siamo ci siamo. E io aggiungerei intanto, finché tu ci pensi, un disco che mi ha accompagnato nella mia infanzia, ed è un disco dei King Crimson. Quale? Aspetta, che mi deve venire il titolo, perché io sono The veramente... Kurt, esatto. The Kurt Crimson Cream, esatto. Quella maschera tremenda, sì, quella faccia tremenda. Da piccola io avevo l'LP grande. Anch'io ce l'ho, sì. E quindi lo aprivi spesso e volentieri. Lo guardavo e mi perdevo in quei disegni, quelle nuance di rose, azzurrino. E comunque le sonorità mi trascinavano, e ancora adesso mi piacciono un sacco. La prima formazione di King Crimson, col pazzo furioso che era Robert Fripp, e c'era anche Greg Lake, ragazzi. C'era Greg Lake che suonava la chitarra. Meravigliosa chitarra di Greg Lake. C'era lui. A me piaceva anche, almeno da piccolina, adesso se lo riascoltassi adesso, in questo momento, mi soffermerei su altre cose. Però da piccola mi incantava un sacco il flauto. Ah, sì. Mel Collins. Flauto meraviglioso. Gruppo straordinario, il vero prog. Possiamo dire che The Kurt Crimson Green nasce il prog. Il prog nasce anche da loro. Nasce da quella copertina straordinariamente impressionante. Però allora è un disco meraviglioso, disco che potrai sentire un sacco di volte e non ti perderesti mai. Poi Robert Fripp è un genio assoluto, ne ha fatti tutti i colori, ma è un genio assoluto. Vai. Poi cos'è che potrei portarmi? Sicuramente devo portarmi un disco, almeno uno, di Tuck & Patti. Ah, come mai Tuck & Patti? È un po' di tempo che non si sentono più i Tuck & Patti. È un duo che mi affascina tantissimo. Sarà anche per i loro colori. Ci sono stati lanciati da un grande pezzo di Cyndi Lauper. Sì, sì, sì, è vero. Però non solo, anche non da solo. Un pezzo di Jimi Hendrix. Anche da un pezzo di Jimi Hendrix. Però li ho visti più volte dal vivo. E dal vivo, danno ancora di più. È una sorta di magia teatrale. Cioè, quello che succede in quel momento non può ripetersi più. E comunque la voce di lei e la chitarra argentina angelica, sì, di lui è un connubio perfetto. Sì, assolutamente. Quindi loro non li posso lasciare da nessun'altra perfetto. Parte se non nelle mie tasche. Bene. E poi allora aggiungerei qualcosa, non so, di Stevie Wonder. Cosa? Tutto Stevie Wonder, tutta la discografia ed è enorme, la discografia di Stevie Wonder è enorme, è un sacco di dischi. Quindi sì, un bel po' di ore di musica. Come mai soul, Carla, ti piace il soul? Perché l'anima, Stevie Wonder è l'anima, il soul. È l'anima, ce l'abbiamo tutti, per cui... Certo, l'abbiamo tutti. Meglio anche portarsi dietro qualche anima in più, che è non vero. Fa mai male. Fa mai male, assolutamente no. E poi siamo arrivati a tre. Sì, abbiamo tre, esatto. Poi dovrei aggiungere un pianista. Però lì mi farei una compilation. E ci metterei un po' di Mozart, un po' di Chopin e un po' di Vince Guaraldi. Ah, però. Bene. E quindi siamo a quattro. Quattro e poi ancora un'altra e scelta. E l'ultimo anche la Veronica sta pensando sempre. No, è che ma che ce l'ho. Ah, ce l'hai, ce l'hai. Non mi viene in mente il nome. Ce l'hai. Anche lì dovrei prepararmi un cofanetto. Di chi? Di chi? Un cofanetto misto tra i Blind Melon e i Beastie Boys. Però hai scelto delle cose molto interessanti. Beastie Boys e Blind Melon soprattutto. Sì, direi che non potrei farne senza. Bene, bene, fa piacere. È una scelta un po' indie su certe. Blind Melon, dunque, abbiamo fatto 10 anni quasi di rock wave. 10 anni no, ma 7. Sei stata forse la terza o la quarta persona che ha citato i Blind Melon. Non moltissimi. Beastie Boys più di uno, ma Blind Melon non propriamente tanto. Interessante. Perché purtroppo non hanno suonato tanti anni. Non hanno suonato tanti anni, però hanno lasciato qualcosa di interessante. Tocca a te, Fabio. Beh, visto che voi siete andati sull'internazionale, io vi riporto un attimo con i piedi per terra. Bene. Ma io lo sapevo che dovevo andare sull'internazionale io, perché dicevi tu il resto. No, beh, io rimango fedele alla mia indole. Cantautorale, tra virgolette, sempre tra virgolette. Così li rispolveriamo anche un po'. Bene. E partirei dal cantautore, ma non solo cantautore, perché l'uomo è anche l'artista che purtroppo ci ha lasciato fisicamente, soltanto fisicamente quest'anno, che è Lucio Dalla. Sì. E quindi, visto che loro hanno parlato di discografia, veramente non c'è disco di Dalla che non mi piaccia. E quindi discografia di Lucio Dalla sicuramente. Completa. Sicuramente. Io se mi posso permettere, Fabio, io ricordo un disco molto bello di Lucio Dalla che è stato poco considerato, che Il giorno aveva 5 teste. Ti ricordi il discorso che faceva con Roberto Roversi, poeta bolognese? Il giorno aveva 5 teste, automobili, album molto interessanti e molto significativi. Ecco, e qui vorrei aprire un attimo un piccolo discorso su questo tipo di modo di comporre e anche di scrivere. Io credo che la differenza di quando uno scrive vivendo quello che scrive si percepisce, e credo che Lucio Dalla, come tanti altri artisti e cantautori che io stimo molto, abbiano prima che scritto vissuto la musica che hanno avuto modo, capito, di scrivere, e quindi questo si riflette nel pathos della musica che fanno, ed è inevitabile che questi pezzi poi rimangano nell'anima e nella storia anche della musica. Ricordiamo che il primo disco di Lucio Dalla si chiama 1999 ed è stato scritto nel 1966, quindi è una cosa ben diversa, cioè era molto avanti. 1999, scritto nel 1966, quindi era molto interessante, molto bravo. Cioè lui aveva cominciato a suonare da molto giovane, aveva suonato con i Flipper, quindi con un gruppo di musica degli anni 60, quindi era una cosa molto interessante. Vai. Sì, e quindi Lucio Dalla, grazie a Lucio Ferro. Dalla di tutto, veramente. Poi continuiamo con la serie di cantautori, certo, così certo. Tanto l'internazionale l'abbiamo già soddisfatto. Sì, l'abbiamo già. Anzi, potrei dirti un disco che mi è molto piaciuto, anche se non conosco tutto quello che ha fatto, è Unplugged di Eric Clapton. Bello, è forse l'Unplugged più venduto della storia, dopo quello vicino a quello dei Nirvana. Non so se sì, è stato fatto prima. No, è stato quello di. Mi pare che quello di Clapton sia stato leggermente prima, qualche, non da poco, non poco tempo prima. In ogni caso, sono due grandi unplugged. L'unplugged di Eric Clapton. Sì, io mi ricordo anche un po' il fascino che aveva questa parola quando sono usciti questi dischi. Unplugged, la prima volta l'unplugged era molto interessante, molto nuovo. Adesso è anche molto nel lessico. Esatto, ormai è una cosa però usuale. Adesso non è più nuovo. E anche un altro disco Poi ti straniero. Sei iscritti? Sì, sì. Non è valido, se sei iscritti. Hai barato. Ho barato. Ma 20 comunque, minuti che penso al nome del gruppo. Ma comunque ti avrei detto questi. Non sarei andato molto lontano da questi dischi. È Comes a Time di Neil Young. Bello, bello quello, bello. E, ecco, una cosa bella che ti posso dire di questo disco è che io quando lo ascoltavo da bambino non sapevo, e non so tuttora in gran parte, adesso lo capisco un po' meglio, ma non posso dire di saper l'inglese. Però ascoltavo questo disco e e venivo colto da sensazioni, da sentimenti incredibili. Sentivo che c'era qualcosa che mi riguardava, e pur non sapendo il significato dei brani, parole, dei testi. Poi col tempo, riscoprendo traduzioni e quant'altro, mi sono accorto che queste cose mi piacevano molto, e il legame tra musica e testo di quei brani, secondo me, è molto bello. Quindi Comes a Time di Neil Young, e c'è un motivo, secondo me, e il motivo è dovuto a Neil Young, che lui ha sempre avuto questo fascino di catturare. Lui è un tipo molto particolare, assolutamente particolare, di catturare la gente sia nei momenti acustici, Harvest, sia nei momenti tremendamente elettrici, quei Crazy Horse. È quello Zuma, ricordate la cavalcata elettrica di Zuma, 9 minuti o quasi di musica elettrica, ma un elettrico fatto da Neil Young, ragazzi, quindi fatto da uno che se ne intende decisamente molto, e trascina. L'elettrico di Neil Young è l'elettrico solo di Neil Young, le sue cavalcate sono quelle di Neil Young, tutto il resto viene dopo, se parli di Neil Young. Il fuoco sacro, direi. Fuoco sacro. E poi? E quindi io sono a tre. Aggiungo un altro disco di un cantautore, non dico la discografia perché sennò poi mi rimproverano di essere sempre troppo simpatizzante nei suoi confronti, e tra tutti scelgo Titanic di De Gregori. Un disco molto interessante, Titanic, non prettamente un disco di De Gregori sul suo standard, un po' diverso, un po' ritmi sudamericani e un po' decisamente malinconico come tanti dischi. Apprezzato e non apprezzato da critica, ha avuto delle critiche controverse, però un grande disco. Ma al di là dell'apprezzamento o meno, io credo che si trattasse innanzitutto di un concept album. Esattamente, che non è semplice, quindi, all'epoca. E quindi questo è già un qualcosa che conferisce una caratteristica a un tipo di lavoro come quello. E poi si sentiva, sì, effettivamente anche vocalmente, che De Gregori era su una zona diversa dai lavori che ha fatto in precedenza e anche da quelli che farà poi successivamente. Esatto, perché lui era il Dylan italiano al 100%, è sempre stato considerato il Dylan italiano. Titanic ha fatto il De Gregori anti-De Gregori, per modo di dire, cioè diverso, sperimentale, tra virgolette, chiaramente. Poi l'ultimo? Ma l'ultimo vado su un altro cantautore, anche questo a me molto caro, senza nulla togliere agli altri, però mi hai detto 5, quindi qui, certo, mi fermo, che è Giorgio Gaber. E come disco scelgo? L'avrei immaginato di Gaber, assolutamente l'avrei immaginato, senza aver visto il tuo foglio qui davanti, l'avrei immaginato assolutamente. E come disco scelgo tra l'altro il penultimo, che, ha fatto? Che è La mia generazione ha perso. Aperso. E che io reputo personalmente, al di là del fatto che piace a me o meno, Io se potessi, sai, si fanno tante cose come patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, se potessi decidere il disco La mia generazione ha perso, lo farei patrimonio, anzi per me è patrimonio dell'umanità un disco come quello, e dei testi che arrivano ad un valore umanitario, e secondo me è molto molto molto consistente. È un grandissimo Gaber. Teatro canzone, tocca a te Veronica, hai trovato questo disco? No, sì, mi sfuggiva il nome del gruppo, nonostante gli apparezzi molto di Spin Doctors, A Pocket Full of Kryptonite. Bene. Avevo in mente l'album, le canzoni, me ne in mente il nome del gruppo. Abbiamo concluso questa cavalcata di dischi da portare su un'isola deserta, adesso ci riposiamo, sentiamo la traccia numero 9, che cos'è Fabio? La traccia numero 9 è un pezzo, anche questo, Casa Bianca, che insomma è un pezzo che non dico niente su questo pezzo, ascoltiamolo così. Ok, così poi cerchiamo di entrare dentro ascoltandolo. Ok. Okay. I nostri clichè alternativi attaccati sul muro di chi sta al sicuro dentro la bianca e dirige l'orchestra del nostro futuro. L'arrangiamento si fa precario cercando l'isola che non c'è. T'accorgi quando suonando una musica suona più grande di te. Casa bianca, bianca di spumiglia che governi la famiglia. Mille rosa, rosa gamberetto, lavorare, tornare a letto, forse almeno per il pane il figlio cresce, vuole il cane, confonde il sabato col sale della vita. Dentro, superstiti fuori, politici, eroi, cavalieri, attori, morti dentro al centesimo piano del catastrofismo americano. E poi sotto l'ombrello del whisky a rimpiangere dischi passati in noi. Dispersi dentro, superstiti fuori, politici, eroi. Casa bianca, bianca di spumiglia che governi la famiglia. Ville rosa, rosa, gamberetto, lavorare, tornare a letto. Forse almeno per il pane il figlio cresce, vuole il cane, confonde il sabato col sale della vita. Bianca di spumiglia che governi la famiglia. Ville rosa, rosa, gamberetto, lavorare, tornare a letto. Forse almeno per il pane il figlio cresce come un cane, confonde il sabato col sale della vita. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, siamo sempre a Rock Wave con Michele Tosoni in regia. Questo è un po' country oriented, cioè molto vicino alla musica country, ma non country così pesante, ma divertente, accattivante. E suoni anche il banjo qua, bello, e suona un sacco di strumenti. Il banjo, come mai hai avuto l'idea di suonare il banjo? Ma qui ho barato anche qui come per i dischi. Hai barato anche qui? No, no, barato nel senso che il banjo... C'è la Cala che ride, anche la Veronica, ridono tutti e due. Il banjo come strumento è uno strumento che ha 5 corde, con una corda più alta sul pollice. E quindi devi essere un suonatore di banjo per essere in grado. Ci vuole una tecnica per suonarlo. Io in questo brano, ma non lo dite troppo in giro, lo stiamo dicendo in radio, in realtà. Non lo saprà nessuno. Ho suonato un banjo chitarra. Ah, quindi hai praticamente preso una chitarra e hai dato il suono del banjo. No, no, no, si tratta proprio di uno strumento banjo chitarra. Cioè, cosa vuol dire banjo chitarra? Cioè una chitarra? 6 corde, come la chitarra, ha la stessa accordatura della chitarra, però... soltanto che al posto della cassa armonica di legno ha la cassa metallica con la membrana come il banjo tradizionale. Perfetto, bellissimo. Purtroppo non l'hai portata questa. No. E l'idea è stata interessante, però il suono era bello, interessante. Cioè, doveva essere proprio quel suono là per quel pezzo là. Sì, ci stava. Vero, proprio. Carla? Ci stava proprio. Ci stava proprio, l'idea era quella, doveva essere gestita in quella maniera. Quindi banjo chitarra. Sì. Questo modo country, questo danzare sulla musica country. D'altronde Casa Bianca, dovevamo andare dall'altra parte del mare. Non eri nel Mississippi, però no. Potevi anche essere. Però a Casa Bianca, insomma, country mi sembrano un binomio. Sì, può andare assolutamente. Ok, adesso suoniamo qualcosa. Dopo abbiamo parlato tanto, abbiamo sentito un pezzo da traccia numero 9. Adesso in scaletta ce ne abbiamo ancora abbastanza per arrivare alle 24. Ma tutto dal vivo, ragazzi. Stiamo sentendo Fabio, Carla e Veronica nel loro progetto. Parliamo un momento del titolo del progetto, visto che ne abbiamo sempre schivato. Adesso ci siamo, sono dopo 1 ora e un quarto, dobbiamo parlare un po' del titolo di questo progetto, che è un titolo molto significativo, visto che l'hai spiegato a te, se me lo spieghi dal vivo, live qua davanti a noi. Sì, il titolo del progetto, partiamo dal titolo proprio, che è metterò la testa a posto. Mentre passa Roberto, è un po' collaboratore principe. Il titolo Metterò la testa a posto è nato dalla, un po' dalla, dalla voglia di scherzare su, su questo tipo di affermazione, non precisamente sul metterò la testa a posto, ma sulla domanda che molti fanno. Mi fanno, ovvero quando è che metterai la testa a posto? E questa è una domanda che sinceramente è una domanda a cui io sinceramente non so rispondere, perché non so dov'è il posto. Ah, è quello importante, non sapere dov'è il posto. E quindi ho deciso di utilizzare questa domanda per fare una canzone che metterò, anzi, al posto del sedere. Al posto che del sedere. È l'unico posto che ho individuato per mettere tutte quelle cose che non voglio appunto più vedere nella mia vita. Che vuoi eliminare praticamente. Non eliminare, sì, ma non lasciate è... a parte. Non è che voglio chiudere gli occhi su certe cose, però se devo preferire il posto dove mettere certe cose che non mi piacciono, ho detto, vabbè, le metto al posto del sedere. Così stanno dietro e non le vedo. Esattamente, sono oscure per chi non si possono vedere, decisamente. E quindi questo è stato un po' il movente che ha dato il titolo al disco. Al CD, sì. E che ha preso ispirazione appunto da questo brano, che è Al posto del sedere, che è anche questo un brano leggermente country. C'è l'armonica adesso. Sì. Che tonalità questa? Questa è... Perché ragazzi, voi non potete saperlo, ma prima ho visto, la Carla l'ha mostrato, la scatoletta, scatolona, con un sacco di armonico, tutto con certe tonalità. Adesso dopo faremo anche una fotografia, a tutte le armoniche con certe tonalità, volutamente. Le hai cercate dove? Queste sono state un po' in giro, cresciute con gli anni. Ah, cresciute con gli anni. Sono significativi, però. Okay. Sì, tra l'altro quella che utilizzerò adesso è un'armonica. Posso dire solamente il prezzo per un discorso di correttezza nei confronti di... Il prezzo è 5 euro. Quindi pochissimo. Però fa la sua funzione. L'ho acquistata in un supermercato. Ecco. E non diciamo quale. Diciamo altro, quale però. Però si difende bene. Ecco. In do, mi pare che sia in do questo. Sì, questa è in do. È in do, in do. No, questo importante. L'ho detto perché solitamente un'armonica, insomma, meno di 30 euro. 30 euro. Ma buone, di solito, che accordatura hanno le armoniche? Ah, beh, ci sono in tutte le tonalità. Sono tutte, non hanno specificamente sempre un'accordatura. No, esistono in tutte le tonalità. In tutte le tonalità, sì. Perfetto. Questo tipo di armoniche, dopo l'armonica di Stevie Wonder. No. Qui stiamo parlando di armoniche blues, tra l'altro io le suono in modalità... credo si dica stride, sì. Ovvero non tirata, esatto. Quindi non in stile blues, mentre quella di Stevie Wonder è un'armonica cromatica che fa di per sé tutte le tonalità, c'è pure il registro, quindi non serve che abbia una tonalità quella, perché comunque esegue tutte le note. Benissimo. E quindi facciamo Al posto del sedere. Ma certamente. Ho la testa a posto per farti vedere, metterò la testa a posto, farò il mio dovere. Metterò la testa a posto, stavolta lo farò, la metterò al posto del sedere. Al posto del sedere, quante cose metterò. Che non voglio più, che non voglio, che non voglio più, che non voglio, che non voglio più vedere. C'è gente tranquilla che fuma camomilla, c'è gente agitata in prima serata, c'è gente convinta che stavolta lo farò, la metterò al posto del sedere. Al posto del sedere, quante cose metterò. Che non voglio più, che non voglio, che non voglio più, che non voglio, che non voglio più vedere. E chi ci vuole troppo belli, belli non saremo mai. Per chi ci vuole acqua e sapone tutto il tempo. E chi ci vuole troppo belli, belli non saremo noi, per chi ci vuole mettere il cappello al posto del sedere. Quante cose metterò che non voglio più, che non voglio, che non voglio più, che non voglio, che non voglio più vedere. Al posto del sedere, quante cose metterò che non voglio più, che non voglio, che non voglio più, che non voglio, che non voglio più vedere. È stato un connubio perfetto tra Fabio, Veronica e Carla in questo pezzo. Era una filastrocca, secondo me, che poi terminava con un pezzo un po' country, ma era una vera e propria filastrocca divertente, ben fatta, soprattutto quell'armonica che non era blues ma che dava quel tocco di filastrocca, di narrazione, di favola, molto molto intelligente e molto divertente. Posso dire, poteva anche essere un singolo, se esistono ancora i singoli. Cosa dici? Ma potrebbe anche essere, però nel disco questo brano secondo me è molto particolare perché c'è la partecipazione di uno strumento veramente quasi sconosciuto secondo me, che è uno strumento immenso, che quasi quasi non c'entrava neanche in casa quel giorno, che c'era il giorno di registrazione. Perché l'avete registrato in casa questo disco, dobbiamo sottolineare questo. Sì, però questo, visto in questa versione che abbiamo fatto stasera, in questo momento, poteva essere anche un singolo. Magari ne registriamo un'altra versione. Quindi. Così. Cosa dici, Fabio? Sì, dico e continuo il discorso che stava iniziando. Sì, che lo strumento in questione si chiama sousaphone ed è la versione più grande del basso tuba, credo, per semplificare insomma la descrizione di questo strumento. Non c'entrava dentro in casa, quindi era enorme. Sì, sì, c'è entrato perché fortunatamente si può smontare. Ah, perfetto, quindi si può smontare. E questo strumento nel disco, così parliamo e torniamo a parlare anche un po' di musicisti che hanno partecipato, è stato suonato da Gianluca Moresco, che è un mio amico e che suona in diverse formazioni del panorama vicentino, anche jazz, e quindi questa ce la siamo giocata così con il sousaphone, e devo ringraziare Gianluca Moresco appunto per la sua partecipazione a questo brano. Ve la siete giocata molto bene, secondo me, al di là della smembratura per poterlo farlo sentire totalmente. Molto interessante, cioè visivamente come si può descrivere, visto che non abbiamo le telecamere? Beh, visivamente è un... Ricordate il basso tuba, ma un po' più energico, sì. È un po' più tozzo. Ha una campana veramente molto grande. Un po' da band, da banda, sì, musicale. Da banda musicale. Uno strumento quasi circense. Ecco, esattamente. E questo può essere una filastrocca circense, poteva essere. Filastrocca e circense nella stessa maniera. Ma oltretutto la scelta qui non è stata tanto difficile, perché trattandosi di sedere ci siamo immaginati un suono profondo, no? Non voglio andare oltre qui. Quindi abbiamo detto, ma potrebbe essere il basso tuba. Poi Moresco se n'è uscito con questo strumento variazione. E io non ho potuto che accettare, perché comunque ha dei bassi ancora più profondi. Ma Moresco ha avuto ragione. Ah sì. Molto. Assolutamente ragione. Tra l'altro mi è arrivato a casa quel giorno che abbiamo registrato con un appunto sugli accordi del brano. Mi ricordo, cioè in che senso? Aveva scritto un titolo tutto suo. Il titolo per Moresco di questa canzone era Metterò il sedere. Ah, quindi ho detto guarda che non è metterò il sedere, ma è al posto del sedere. Però già, però quando ho visto il foglio degli appunti mi sono veramente messo a ridere, perché però la conclusione, l'idea è poi venuta fuori molto molto bene, al di là del titolo posto in piatto. 23:24:13, adesso potremmo, sì, facciamo un altro pezzo live, sì, a me piace molto i pezzi live, piacciono molto, e anche gli ascoltatori di Rock Wave, stasera con Fabio, Carla e Veronica. Fabio, il suo progetto, progetto molto interessante. Guarda, assolutamente da cantautore, tra virgolette, sempre tra virgolette. Se mi dai un secondo, io prendo anche uno strumentino. Che strumentino è? Questo è un kazoo. Ah, un kazoo, bellissimo. Fammelo sentire prima. Adesso prima vorrei di... ricollegarmi allo stile del primo disco della Veronica, quello di Bob Marley. Ah, bello. Quello che ha scelto la Veronica. Quello che ha scelto la Veronica. Guardavo che disco mio, primo. Beh, si sa mai. Sì, ma si sa mai, Veronica. Andiamo. Precedente. Appunto, hai visto qualche vita precedente. No, parlavo del disco, quello dell'Isola Deserta. Sì, certo, certo, certo. E quindi potremmo fare un pezzo reggae. Bello. Quindi in levare. E proprio dell'improvviso questa con il kazoo, che è un po' lo strumento che doveva sostituire l'armonica in al posto del sedere per questo suo suono. È vero, sì. Un po' profondo, dai. Vi facciamo sentire questo pezzo che invece diventa giorno e che è un brano che parla di quattro amici, quattro ragazzi che decidono di fare una bravata, cose che non vanno più tanto di moda, però io sono stato uno delle bravate, quindi mi stanno ancora un po' a cuore. Decidono di liberare gli animali dello zoo come segno di anche di libertà. E questa è Diventa giorno. Quattro amici senza nome, come gira la città, passeggiando sulle traversine, randaggi senza comodità, la carrozza se ne va, è l'orizzonte intorno a noi, pochi sguardi in giro e poi diventa giorno. Quattro amici senza prove, come moto io ci sto, questa notte liberiamo gli animali dello zoo, la foresta tornerà, l'ultima gabbia resta la città, pochi sguardi in giro e poi saltiamo dentro. Due bravate ancora buone, se ci prendono non piangerò, poi guardi in giro e poi diventa giorno, diventa giorno. Due bravate ancora buone, se ci prendono non piangerò, poi guardi in giro e poi. Dileguati un po' più in là, chissà quanto avranno da fare a sistemar la libertà. Quattro amici senza prove, come dorme la città, pochi sguardi in giro e poi diventa giorno. Due bravate ancora buone, se ci prendono non piangerò, piedi in giro e poi diventa giorno. Diventa giorno. Due bravate ancora buone, se ci prendono non canterò. Guardi in giro e poi diventa giorno. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Fabio Cardullo, Carla Cavaliere e Veronica Zatti, diventa giorno. Suonavi questo strumento, suonava spesso e volentieri Edoardo Bennato. Sì. One Man Band, assolutamente One Man Band. Ci manca anche la percussione vicino al piede, non ce l'hai? O ce l'hai? Ce l'hai? No, non ce l'hai. Vabbè, hai tante armoniche, Edoardo Bennato le suonava ben volentieri. Pezzo molto divertente, molto accattivante. Un'altra favoletta, una favoletta tua, una favoletta un po' amara in qualche momento, però è una favoletta, un tuo modo di fare, un tuo quadro, una tua illustrazione. Sì, sì, è un pezzo sicuramente Monello, decisamente Monello. E poi gli strumenti che hai usato adesso sono Monelli, nel senso Monelli, un po' irriverenti, sì, un po' irriverenti, non totalmente o prettamente tradizionali, però suonati in modo non totalmente tradizionale, possiamo buttarla così. Sì, sì, sì. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. E proprio questa, più che scriverla, l'ho vista, nel senso, avevo delle immagini in testa. E può essere cinematografico questo pezzo, assolutamente. E anche i coretti sono cinematografici, decisamente i coretti. Questo monosillabare, posso dire così. Mm-hmm. E anche quello, l'idea del monosillabare è stata tua? No, è venuta, è vostra, è stata vostra. Danno una certa, ma io non voglio togliere meriti a nessuno, anzi sono un po' preoccupato perché le vedo fin troppo disinvolte. Ah, perché non devono essere disinvolte? No, ma solitamente sono più timide di così. Ma qui la radio praticamente leva le barriere. Ho capito io, però se adesso queste non gli do un certo giro, poi a casa, hai capito? Hai capito? Quindi si allargano, cominciano a chiedermi: ma quando è che torniamo in radio? Quando è che andiamo in radio? Perché se questi ci prendono gusto, ti metti d'accordo poi con il nostro direttore artistico e salutiamo che Alberto Prisco e vieni qua, il problema non sussiste. Certo, anzi saluto anche io Alberto Prisco perché ci siamo sentiti abbastanza, insomma, prima di venire. Michele mi porta un bigliettino, un saluto da Agostino a Fabio e tutte le ragazze. E tutte le ragazze, saluto da Agostino. Grazie Agostino. Bene. E poi cosa possiamo dire? Bello, divertente, accattivante, ma sempre fatto con una certa maniera. Cioè, bello, divertente, accattivante, ma questo pizzico di malinconia c'è sotto. Qualcosina c'è. Certo, perché il gesto di liberare gli animali dello zoo non è neanche una scelta facile. È una scelta di un quindi certo peso. Credo che la malinconia nasca dal fatto del dubbio dell'essere capiti, poi. Per quanto riguarda... E tu sei cantautore anche per quello. Sì, io sto parlando di quattro ragazzi adesso. Le bravate. No, al di là delle bravate, sei cantautore anche... Il cantautore di solito, posso dire, qualche volta è anche malinconico, dai. Beh, la malinconia è un elemento. È un bel elemento del cantautorato, la malinconia, secondo me. Negativo. Non totalmente ecco. Negativo. Ci sono delle visioni, ci sono dei colori che possono essere malinconici. Ma certo, il colore malinconico credo che possa aiutare anche la riflessione in certi punti, come colorazione, come intenzione. Ecco, malinconia sì, tristezza no. Ecco, malinconia... Ricordavo un famoso pezzo di Moody Blues, Malinconia in mente, non so se lo ricordi, da un album favoloso. Questo suono malinconico, ma malinconico vuol dire belle sonorità, anche sonorità delicate che ti avvolgono. Nostalgico, magari. Nostalgico. No, nostalgico, no. Malinconico, dai. Nostalgico, cioè, forse. Da quell'aura romantica, la malinconia. Il romanticismo non fa mica male, qualche volta fa bene nel canto autorato. Siamo fatti di tanti sentimenti. Di tanti sentimenti, ecco, siamo fatti anche di tanti sentimenti. 23:33, ma i sentimenti musicali sono sempre qua. Adesso ci facciamo una piccola sosta. Abbiamo scelto la traccia numero 12, vero? Sì, così? Qui vorrei spendere due parole. Spendiamo più di due parole. Perché questo è un brano molto importante, in realtà, di questo corso musicale che ci sta accompagnando in questo, in questo momento. Perché da questo brano abbiamo tratto il videoclip. Di cui potete vedere tranquillamente nella versione integrale su YouTube, e forse l'abbiamo già detto anche all'inizio. Sì, che però lo diciamo. Lo ridiciamo, quasi, sì. Quasi alle 11:35, quindi. Beh, alla fine i miei canali, per chi volesse mettersi in contatto, non sono molti, perché diciamo ho i tuoi canali, dai, il Fabio. Facebook tradizionale, che è Fabio Cardullo, esiste anche una pagina artista, Fabio Cardullo, semplicemente. Mentre per quanto riguarda il prossimo pezzo, che è Siepe Quadrata, c'è sia una pagina e un profilo Facebook. Eccola qua, qua davanti. Che il video è visibile su YouTube, andando a cercare Siepe Quadrata. Di Siepe Quadrata vi assicuro ce n'è una sola. Eccola qua, ripeto un'altra cosa. Eccola davanti. Qui con noi, la mascotte. La mascotte. E poi abbiamo anche dedicato un sito che è www.siepequadrata.it, in cui ci sono tutte le curiosità che stanno accompagnando questo videoclip e tutto il movimento che ne sta nascendo. E poi c'è il mio sito, che è www.fabiocardullo.com. E appunto fotografia della Siepe Quadrata. Domani la mettiamo su Facebook. Bene, bene. Dimmi, questi sono i miei portali, insomma. Per dire qualcosina di Siepe Quadrata. Se voglio, scusami, se uno vuole ai tuoi concerti per avere materialmente l'album. Sì. E per il momento stiamo ancora valutando il servizio che per la messa in vendita online del disco. Metterò la testa a posto. Ecco, c'è la regia. Michele, anche Michele sì, lo sta mettendo decisamente a posto. Il disco se l'è già intascato. Esattamente. E quindi appunto sarà una cosa che dei prossimi giorni, perché appunto stiamo valutando a quale servizio fidarci. E per il momento mi potete scrivere sul mio sito fabiocardullo.com, ci sono i contatti, se qualcuno volesse il CD possiamo spedirlo a casa. Diciamo un momento il grafico, il disco è molto bello anche dal punto di vista grafico. Sì, graficamente sono stato anche aiutato da un amico che saluto e che ha anche suonato all'interno del CD, del CD, che è Luca Peruzzi. Perfetto. E quindi tornando e mi ricollego a Siepe Quadrata, è stato appunto un videoclip anche questo autoprodotto. E in questo hanno svolto un ruolo fondamentale Luigi De Frenza ed Ernesto Posenato, che hanno fatto le riprese. Successivamente Luigi De Frenza mi ha aiutato molto nel montaggio e per tutto quello che riguarda la fotografia e la post-produzione. E quindi Siepe Quadrata è nato da un brano che anche questo ironizzava su una strana mania, di cui io vi avverto adesso, per voi che sentirete questo brano, una siepe non sarà più la stessa. Perché adesso vedrete una siepe quadrata con gli occhi diversi. E appunto di ironizzare su questa strana mania, per me è strana, perché è una cosa come la siepe, io la reputo un arbusto, un cespuglio, una pianta, e viene ridotta come un muro. E questo mi fa riflettere, ed è un po' la metafora del rapporto che abbiamo attualmente con la natura, e che credo sia uno dei rapporti più importanti che ha l'uomo come possibilità per evolvere e per trarre qualsiasi tipo di insegnamento e di crescita personale, che è la natura. Quindi da questo tipo di stimolo è nato il brano Siepe Quadrata, ed è nato anche un simpatico videoclip in cui ci sono degli attori, quindi non è il classico clip musicale dove c'è la band che suona e basta, ma abbiamo fatto delle scenette con degli attori. Tra l'altro abbiamo trovato un posto bellissimo, una siepe incredibile, e gli attori sono Gaetano Cazzola e Antonella Dalchele. E poi colgo l'occasione anche per salutare David Riganelli, che mi ha aiutato con i costumi. E quindi Siepe Quadrata, io vi auguro e vi invito ad andare a vederlo. E che dire, sentiamo il pezzo? Certamente. Siepe quadrata, come la tua testa, c'è gioia alla mano, giornata di festa. Na na na na na na. Siepe quadrata, come la tua testa. Na na na na na na na. Assiepatemi, coglietene il senso, senza mai tagliarmi le ali. Assiepatevi senza pudore, senza siepi quadrate nel cuore, assiepatevi, coglietene il senso, senza mai tagliarvi le ali, assiepatevi, se... na na na na. Dimmi che senso d'ordine ti dà, priva la siepe della sua rotondità. È la natura che va via dalla tua testa, è la natura che va via da te. Prima del vento commerciale c'era un'altra via, la tua storia, la mia. Prima del vento commerciale c'era un'altra via, quella storia va via. Siepe quadrata come la tua testa c'è gioia, siepe quadrata come la tua testa c'è gioia, alla mano giornata di festa, na na na. Assiepatevi, coglietene il senso, senza mai tagliarvi le ali, assiepatevi senza pudore, senza siepi quadrati nel cuore, assiepatevi, coglietene il senso, senza mai tagliarvi le ali, assiepatevi senza pudore, senza siepi quadrati nel cuore. Assiepatevi, coglietene il senso, senza mai tagliarvi le ali, assiepatevi senza pudore, senza siepi quadrate nel cuore, assiepatevi, coglietene il senso, senza mai tagliarvi le ali, assiepatevi senza pudore, senza siepi quadrate nel cuore. Ai ha, ai ha, na na na na. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Questo finale dall'Honor, questa chitarra elettrica che faceva verso la chitarra. Beh, in realtà possiamo dire agli amici che sono a casa che se hanno sentito qualche saltello del disco è perché tutti in regia stavano ballando, danzando. Sì, esatto, per quello. È successo finimondo qui, eh. Tutti hanno danzato, si sono mossi, perché è un pezzo da muoversi, da sieparsi. Esattamente, da movimentare, da ballare, bello, interessante, divertente. E le caratteristiche dei pezzi di Fabio sono anche il divertimento, cioè il muoversi, possono dare movimento, Fabio, sicuramente. Mm-hmm. E qui, è una caratteristica anche questa. Qui sì, questo voleva essere il brano del videoclip, quindi avendo quindi anche doveva essere così. Una certa visibilità, sì. Quindi mi ero dimenticato prima di dire, sì, che in questo brano mi ha dato un aiutino con i suoni, con il missaggio, un produttore bolognese che è Robert Sidoli, che saluto perché certo, ha contribuito anche lui a suo modo a migliorare quello che era il brano iniziale. Devo dire, ha lavorato su delle tracce anche molto difficili da un punto di vista dei suoni, e non abbiamo avuto molto tempo di sistemarlo come volevamo, perché il disco stava per arrivare a capolinea e il video era in lavorazione nello stesso momento, però devo dire che di tutte le cose che potevamo fare è sicuramente il massimo, quindi grazie anche a Robert. Sicuramente, ritornando al discorso iniziale che abbiamo fatto alle 22 quando siamo partiti, questo è un gruppo, è un disco di gruppo, c'è tutta la gente che ti ha dato una mano, ha dato il suo contributo, però tenendo sempre presente una cosa fondamentale: tutti i pezzi sono farina del tuo sacco. Ecco. Sì, sì. Assolutamente. Poi che sono state delle variazioni, dei mutamenti, delle piccole, dei piccoli allargamenti, dei distingimenti, ma questo non vuol dire assolutamente nulla. Ti hanno dato una mano, sì, però la strada l'hai praticamente portata avanti te. ma da un punto di vista della creatività io non mi lamento. Bene. Però devo dire anche che quando un brano c'è e se tu lo fai chitarra voce si sente già se il brano è dritto è vero, o è storto. Hai detto la cosa giusta, e quindi poi quello che può succedere in fase di arrangiamento, in fase di suoni, sono tutti aspetti che possono cambiare a seconda anche di chi partecipa, e quindi è un'alchimia generale che poi fa arrivare a un risultato che può essere diverso appunto a seconda di chi. Alchimia generale, mancano esattamente 15 minuti alla fine della nostra cavalcata, abbiamo delle cartucce da sparare musicalmente parlando, la prima che cos'è? Beh, un altro brano del CD. Certamente. E quindi questo è un brano che tra l'altro, ecco, che all'inizio dicevo che il CD è composto anche di qualche brano datato, uh-huh. Perché questo è un brano che facevamo più di 15 anni fa. Però, sì, quindi sì. A una certa età. Proprio l'inizio delle tue peregrinazioni, sì, sono. Sì, sì. Il gruppo si chiamava Flebo Stabile. Flebo Stabile, perfetto. E questo era uno dei brani che facevamo. E che si intitola Sotto la stessa bandiera. Ecco, un po' una sorta anche qui di invito a guardare oltre quei limiti e quei confini sempre un po' materialistici che ci fanno credere delle cose che poi in realtà possono essere benissimo abbattute. In questo caso io ho usato la bandiera come diciamo è sì un simbolo di identità, ma può anche diventare un simbolo di conflitto quando se ne fa del razzismo oppure del campanilismo. Quindi sì. Questo era quello che il messaggio sotto la stessa bandiera, per dire guardate che comunque di bandiera ce n'è una sola ed è quella dell'umanità. Questo è il brano Sotto la stessa bandiera. Ok. Sì. Vabbè, okay, non è ancora pronto. No, ma adesso parliamo ancora. Allora, cioè, hai detto che è datato quando praticamente? Questo sì, deve essere 96. 96, sì. Quindi è una certa età. Sì, sì, sì. È stato riesumato. Mi ripeti il nominativo della band che era molto di nominativo? Flebo Stabile. La Flebo Stabile, eccolo qua. Sì. Può andare. Chi ci ascolta passando per caso sembra interessato alle nostre discussioni. Noi per farci sentire alziamo un po' la voce. L'amico dice è vero, forse hanno ragione. Abbiamo perso il vizio di tacere. Ci aggrapperemo a chissà quale forma di piacere. Indifferenti quando passano luci e sirene, osservando però le regole marcire. E come dice chi s'accontenta, come viene, viene. E infine resto da peggio di come già. Sotto la stessa bandiera. Abbiamo deciso di fare una cosa, visto che il pezzo era molto interessante, lo facciamo ripartire per risentirlo, perché dal 1996 fino adesso è giusto farlo risentire, perché quello era il periodo, la band era un po' particolare. Quanti eravate in quella band? In cinque. Sì. C'era la Veronica e la Carla, c'erano già? No, io non c'ero. Ah, non c'era, c'era Veronica? Sai, non sì. Ero ancora nata. C'era Veronica, c'era Massimo Fracasso che ha suonato la tromba in La Luna Spunta, che in realtà nel gruppo Flebo Stabile suonava la batteria. Perfetto. E poi Morris Zerbato al basso, Fabio Tirabosco alla chitarra, Fabio Cardullo alla chitarra, certo. E Veronica ai cori. E Paolo Sesso alla voce, mamma mia, me lo stavo dimenticando. Adesso lo rifacciamo sentire, vediamo come parte, ok? Chi ci ascolta passando per caso sembra interessato alle nostre discussioni. Noi per farci sentire alziamo un po' la voce. L'amico dice è vero, forse hanno ragione. abbiamo perso il vizio di tacere. Ci aggrapperemo a chissà quale forma di piacere, indifferenti quando passano luci e sirene, osservando però le regole marcire. E come dice chissà contenta, come viene, viene. E infine resto qua, dov'è la tranquillità. E infine cambierà, peggio di com'è già. Sentiremo un po' di rock in più e un po' di rock and roll, e il country la sera, attorno al grande fuoco, fuoco che brucia. Sotto la stessa, sotto la stessa, sotto la stessa bandiera, sotto la stessa, sotto la stessa, sotto la stessa bandiera. Questa storia la bandiera brucerà, le sue sorelle dimenticate, solo un'usanza che si perderà. E chi passava e non ti salutava più avrà dimenticato dietro sé il desiderio di capire perché vada a finire così questo film. E infine resto qua, dov'è la tranquillità. E infine cambierà, meglio di com'è già. Sentiremo un po' di rock in più e un po' di rock and roll, e il country la sera, attorno al grande fuoco, il fuoco che brucia. Sotto la stessa, sotto la stessa, sotto la stessa bandiera. Sotto la stessa, sotto la stessa, sotto la stessa bandiera. Sotto la stessa, sotto la stessa, sotto la stessa bandiera. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Meritava proprio di essere sentito, assolutamente meritava di essere sentito. L'abbiamo sentito tutto, quindi senza nessuna introduzione, ed è giusto così. Adesso spariamo le ultime due cartucce, assolutamente live. Il primo pezzo live, Fabio. Allora, è un inedito. Bello, gli inediti sono, fanno sempre piacere a Rock Wave. È nato da un'esperienza molto semplice ad un mio amico che sta facendo e sta finendo anche di fare il pastore nelle Alpi francesi. Bello. Aveva 26 o credo 27 mucche al pascolo. Una di queste un bel giorno ha deciso di andarsene ed io ho deciso di scrivere questo pezzo che dedico per questa volta a Nicola Lovato, appunto, che sta facendo il pastore, che tra un po' tornerà con noi. Il pezzo si intitola Una mucca in città. Ok, benissimo, sentiamo allora adesso. Mucca non gliene fregava di quello che tutta la stalla pensava, e curiosa decise di farsi una vita in città. senti parlare dell'erba buona, di appuntamenti e mondanità, che se ci credi qualsiasi illusione diventa realtà. Oh, oh, una mucca in città, che se ci credi qualsiasi illusione diventa realtà. Oh, oh, oh, una mucca in città, che se ci credi qualsiasi illusione diventa realtà. Perché di monti non ne poteva più, perfino i grilli non ne poteva più, un movimento di balle e di stelle ti butta un po' giù. Perfino in Parlamento voleva provare carriera scabrosa da parlamentare, sia mai che serva una faccia nuova, una poltrona per una vacca si trova. Oh, oh, una mucca in città, che se ci credi qualsiasi illusione diventa realtà. Oh, oh, una mucca in città, che se ci credi qualsiasi illusione, si fosse sbagliata poteva tornare, portando i segni di un errore. Si fosse sbagliata poteva tornare dov'era e raccontare la storia vera. Oh, oh, una mucca in città, che se ci credi qualsiasi illusione diventa realtà. Oh, oh, una mucca in città, che se ci credi qualsiasi illusione, se dalle stalle si passa alle stelle, poi dalle stelle dove si va? Non si comanda la voglia che spinge le mucche in città. Se dalle stalle si passa alle stelle, poi dalle stelle dove si va? Non si comanda la voglia che spinge le mucche in città. Oh, oh, una mucca in città. Oh, oh, oh. Città. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, abbiamo finito, Flavio. Purtroppo, dopo due ore di cavalcata molto interessante, secondo me, con testi belli, cattivanti, musica di un certo tipo, però suonata sempre con una certa discrezione, i cori femminili di Carla e di Veronica, abbiamo finito. Abbiamo finito, io sono stato molto soddisfatto di averti ospitato, ringraziamo sempre il nostro direttore artistico, ringraziamo Michele Toson per la puntuale regia, ringraziamo Roberto Valdi che ha dato una mano dal punto di vista tecnico, e ricordiamo i tuoi appuntamenti, se hai concerti eccetera. Sì, allora prossimamente il 14 settembre avremo un appuntamento molto interessante al campo sportivo di Anconetta di Vicenza, che è un appuntamento che si chiama Remember Hippo, per ricordare un ragazzo in particolare tifoso del Vicenza Calcio che è scomparso l'anno scorso, e quindi questa sarà un'occasione per riunirci e fare musica e ricordare questo ragazzo che era molto affezionato e che i tifosi del Vicenza Calcio conoscevano sicuramente molto bene. Il 14 settembre si terrà questo appuntamento. Il 15, che è sabato, invece, avremo un'altra occasione per suonare a Parco Querini di Vicenza, sempre. Però questa volta, mentre il Remember Hippo è serale, al Parco Querini credo suoneremo alle 16 di pomeriggio. E il 28 settembre abbiamo uno dei primi appuntamenti nei locali della zona di Vicenza, che è all'Osteria La Quercia. Sempre serale, quindi il 28 settembre. Ricordiamo il titolo del disco. Il titolo del disco è Metterò la testa a posto, assolutamente autoprodotto, che sì. Possiamo trovare nei tuoi concerti. Ricordiamo il sito. Il sito è fabiocardullo.com e anche siepequadrata.it, che è il videoclip. grazie a Fabio Cardullo, a Carla Cavaliere, e Veronica Zatti, grazie di tutto, grazie per la collaborazione musicale, per queste due ore meravigliose. Con cosa finiamo? Allora, finiamo con un brano che è contenuto, questa volta è nel CD che abbiamo fatto prima di questo, che si intitolava Il Paradiso è qui, e il brano si intitola Figli del Mondo. Buonanotte a tutti, grazie. C'è una figlia del mondo che ha sposato i suoi figli con il traffico in partenza per un'altra città. E c'è una figlia del mondo tra milioni di persone con la testa bucata da milioni di pubblicità. Tutti dicono che non è giusto, no! Tanti dicono che non è giusto, tutti dicono non c'è più posto. Io non posso essere giudice di questo, che non so con che coraggio oggi si chiami solidarietà. E poi chi è nato fortunato non è detto possa decidere, perché è nato e non ha visto che mosche, fame e battaglia per sopravvivere. Per sopravvivere. Figli del mondo, figli del tempo, dalla stessa parte del vento. Figli del vento, figli del mondo, dalla stessa parte del tempo. Oh, oh, oh, oh, oh. Chiederò mondo un po' di pietà, un po' di pietà, un po' di pietà, un po' di pietà. Ti guardano, camminano e sudano freddo, e quando va male sudano sangue e poi muoiono. Stadio e gridano in chiesa e poi sparano dentro di te, dentro di te. Figli del mondo, figli del tempo, dalla stessa parte del vento. Figli del vento, figli del mondo, dalla stessa parte del tempo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'è una figlia del mondo che ha sposato i suoi figli con il traffico in partenza per un'altra città. E c'è una figlia del mondo che non sa se arriverà domani, e che domani sarà.